vita nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia. Domenica 9 gennaio, il sole in regione è sorto alle 7.49 e tramonterà alle 16.40. La luna è crescente e siete di nuovo all'ascolto di Vita nei Campi. Buongiorno da Armando Mucchino e Rita Micoli. Su richiesta di molti ascoltatori di Vita nei Campi iniziamo oggi una serie di approfondimenti sui principali comparti dell'agricoltura in Friuli Venezia Giulia per fare il punto della situazione in un momento strategico per il futuro, con cambiamenti in vista che potrebbero rivoluzionare anche da noi il settore primario. Lo faremo con tecnici ed esperti. Oggi iniziamo con la viticoltura con il professor Enrico Peterlunger, docente di viticoltura all'Ateneo del Friuli. A seguire con Angelo Floramo un'istantanea di queste mattine d'inverno quando a regnare è la brina. Poi le novità in arrivo per il PSR, i consigli per acquisti sicuri di piante da frutto, la sciamatura delle api e le differenze tra semina e propagazione degli alberi. In conclusione andamento e confronti per il mercato agricolo, le previsioni del tempo e un'insolita valutazione del proverbio della settimana. Dove va la viticoltura friulana? Situazioni attuali e prospettive lo chiediamo al professor Enrico Peterlunger, che insegna viticoltura all'Università del Friuli. Fare il punto della situazione della viticoltura in Friuli non è così semplice e banale. Bisogna dire anzitutto che il momento attuale però è favorevole. Il settore continua a crescere da oltre 10 anni a livello nazionale e anche regionale, sia come superfici coltivate a vigneto, siamo arrivati a circa 28.000 ettari, che come produzioni. Anche l'esportazione aumenta. Per il nostro paese è un settore fondamentale per la sua PLV, ma anche per il suo carattere di prodotto che identifica le produzioni e la cultura italiana. La redditività in generale è buona. Negli ultimi anni si è ritornati a produzioni in regione soprattutto di vini bianchi, che sono la vocazione di questi territori, dal clima temperato fresco. In particolare sono aumentate le superfici di pino grigio, glera e ribolla gialla e le altre varietà sono stabili o sono arretrate, sia in cifra assoluta che in percentuale. Ad esempio il Tokaj friulano, che 30 anni fa era quasi la metà del vigneto friulano, adesso si è ridotto notevolmente. Tutto bene dunque? Non proprio. Ci sono problemi di innovazione dei sistemi produttivi, sia in vigneto che in cantina. Partiamo dalla formazione. Sappiamo che il vino buono si fa prima di tutto in vigneto. Dobbiamo considerare che le tecniche di coltivazione tradizionali oggi non sono sufficienti. Non si tratta di buttare a mare la tradizione, ma le tecniche antiche andavano bene nel contesto di 50, 80, 100 anni fa. Inoltre la trasmissione di padre in figlio, o meglio da nonno a nipote, si è in molti casi interrotta. La viticoltura di oggi, per essere praticata, ha necessità di una professionalità elevata e di una formazione specifica. Per questo, stanti i livelli elevati di qualità richiesti dal mercato, la gestione della chioma, della nutrizione, dell'irrigazione e della difesa sono cruciali e non basta più una tecnica tanto per, ma serve formazione. Ad essa in regione provvedono l'Istituto Agrario di Cividale e l'Università di Udine con i corsi di laurea in viticoltura e enologia e magistrale. Ad oggi sono usciti da Udine oltre 1200 enologi. È bello vedere i nostri laureati nel settore che prendono sempre maggiore spazio sia in regione che in molte altre regioni italiane e all'estero. A questi si aggiungono non pochi studenti stranieri che vengono a studiare qui a Udine. Il nostro Ateneo è un catalizzatore di rapporti internazionali e di innovazione. I ragazzi vogliono fare un'esperienza all'estero per poi tornare qui arricchiti di idee e di slancio. Dunque la formazione è indispensabile, come nelle altre professioni. Inoltre è opportuno dire che l'Università del Friuli è una risorsa di innovazione che può e deve essere utilizzata dal territorio. La professionalità poi si esprime nella tecnica ed è fondamentale capire ciascuna situazione. Ogni vigneto è diverso e va capito e va compreso. Il compito del viticoltore è interpretare il rapporto genotipo-ambiente, favorendo l'indole naturale della varietà. In questo, strumenti recenti messi a disposizione sono il monitoraggio in vigneto fatto con il cellulare e applicazioni appositamente progettate e utilizzate per questo. L'aspetto attuale dei vigneti è ben diverso da 40-50 anni fa. Le piante sono più curate, si vede un'attenzione, una cura alla gestione della chioma, e questo è bene. Una chioma ordinata è una premessa di sanità e di qualità, anche se quest'ultima non necessariamente viene raggiunta con una chioma ben ordinata e pettinata. Noi non dobbiamo nemmeno dimenticare che un bel vigneto è parte di un paesaggio gradevole e bello che contribuisce a migliorare l'attrattiva dei territori, oltre a dare soddisfazione di per sé a quelli che vi abitano. Oltremodo di stagione la storia che oggi ci racconta Angelo Floramo, imperniata sulla giulugne, ovvero la brina che al mattino brilla nei campi. Il paesaggio che la campagna invernale friulana regala nelle mattinate di gennaio e di febbraio ha tutto lo splendore di un incanto, conservando il profilo delle fiabe raccontate attorno al fuoco, capaci di evocare spiriti e prodigi a involarsi nella cappa fuliginosa del camino. I prati e i campi biancheggiano sotto una scintillante carezza di gelo che trasporta in una dimensione straniante, in bilico tra il sogno e la visione. Le stoppie graffiano la terra, i gelsi sembrano ancora più curvi e nodosi di sempre, quasi fossero irreali processioni di anime penitenti avvolte dalla bruma. La lingua italiana chiama questo fenomeno brina, ma in friulano il vocabolo assume una connotazione più forte, quasi ancestrale, profondamente pagana. Giulugne. Il suo nome deriva da quello di Iule, il dio dell'inverno gelato, venerato dai popoli germanici e rimbalzato fin qui, tra il V e il VI secolo, da sotto le tende di pelle dei Goti, o forse rotolato giù dalle rocche di pietra dei Longobardi, cantati da Paolo Diacono, quelli che elessero la nostra terra come il loro primo ducato. Concedersi una passeggiata lungo i sentieri che delimitano i poderi di primo mattino, quando dei fossi riluce il riflesso del ghiaccio e l'erba rinsecchita crocchia sotto le scarpe, è un'esperienza di rara bellezza che andrebbe assaporata con calma. Solo così si possono interiorizzare quei paesaggi che si sono sedimentati nel nostro immaginario collettivo, ereditato dagli antenati contadini. Loro, in questo tempo apparentemente sospeso, sapevano bene quanto la terra fosse generosa di piccoli tesori sotto quella coperta di vetro. L'orto, malgrado l'alito gelato dalla bora, regala le rotondità biancastre dei cavolfiori, i cavoli cappucci, le verze, i cardi e le rape, capaci di assicurare alla tavola, anche in mesi di magra, certe soddisfazioni non certo trascurabili, perfino pericolosi. Non è un caso che in numerose raccolte statutarie friulane redatte nel Medioevo, il furto di questi ortaggi, che garantivano la sopravvivenza della comunità nei mesi più freddi dell'anno, veniva severamente sanzionato. Foglie, radici, gambi si facevano bollire e quindi venivano conservati in recipienti a strati alternati con sale e lievito. Oppure si mangiavano cotti sotto forma di zuppe e minestre, lasciate sobbollire per ore sul fuoco e poi ministrate, ovvero servite nella logica dell'accoglienza e della condivisione. Oggi, come allora, da quelle pentole si diffonde un odore di terra che sa di caldo, di buono, di casa. Il 2022 è l'ultimo anno della programmazione comunitaria prima dell'avvento della nuova PAC. Assieme a Marco Malison, responsabile tecnico economico di Coldiretti del Friuli Venezia Giulia, vediamo che cosa significa per il piano di sviluppo rurale della nostra regione. Anzitutto ricordiamo che nel cosiddetto periodo transitorio 2021-2022, per far fronte ai problemi economici causati dalla pandemia, l'Unione Europea ha messo a disposizione degli Stati membri risorse aggiuntive rispetto alla normale dotazione finanziaria dei PSR. Fondi nuovi che saranno impiegati con le regole della programmazione 2014-2020. Detto ciò, con l'intenzione di agevolare le imprese agricole a impiegare tutte le risorse disponibili e evitare così disimpegni automatici, l'autorità di gestione del PSR del Friuli Venezia Giulia ha recentemente reso noto il cronoprogramma dei bandi per il 2022 con le relative dotazioni finanziarie. Ricordiamo qualche scadenza significativa. Lo Stato attuale ha già aperto il bando per gli investimenti nell'efficientamento dell'irrigazione che scadrà il 7 febbraio. A giorni è attesa l'apertura della misura 611 per l'insediamento dei giovani in agricoltura che scadrà a fine giugno. Ma i bandi più attesi sono quello della misura 421, investimenti per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, che sarà aperto a maggio, è quello della misura 411, investimenti in macchinari e attrezzature a maggior valenza ambientale, per il quale bisognerà attendere dicembre. Nel mese di luglio si prevede anche il rifinanziamento del fondo di rotazione con risorse del PSR e pertanto sarà nuovamente attivo anche un canale di finanziamento agevolato con procedura sportello. Quali le precauzioni per evitare di restituire soldi a Bruxelles? Beh, siccome per le misure a investimento non sono ammessi meccanismi di trascinamento degli interventi nella programmazione 2023-2027, è necessario accelerare al massimo la spesa. E per questo sono state introdotte nei nuovi bandi alcune condizioni restrittive rispetto al passato. Anzitutto i termini per la chiusura dei bandi non saranno prorogabili. Poi saranno concesse ai beneficiari tempistiche ridotte per l'esecuzione degli interventi e sarà ridotta al minimo anche la possibilità di apportare varianti alle operazioni finanziate. Infine bisogna sapere che in ogni caso tutti gli investimenti dovranno essere conclusi e rendicontati entro il mese di aprile dell'anno 2025. Tutto quello che si deve sapere al momento dell'acquisto di piante da frutto in vivaio ce lo dice oggi il professor Raffaele Testolin. È proprio il caso di definire questa puntata consigli per gli acquisti. Cominciamo con la scelta delle varietà. Se sapete già che varietà volete piantare, bene. Scordate le varietà moderne che sono tutte brevettate e i garden non le possono vendere legalmente. Tolte queste varietà, vi restano le varietà più vecchie, ma non per questo meno buone. Fate qualche giro per i vivai e osservate quello che offrono. Diffidate delle piante con il cartellino che indica solamente il nome della specie, melo, cacchi, uva da tavolo, pesco, eccetera. Cercate invece le piante che hanno anche il nome della varietà. Prendete nota di quello che offre il vivaio, tornate a casa e cercate su internet le caratteristiche di quelle varietà di cui avete preso nota. Scegliete e tornate ad acquistare. Parliamo di impollinazione. Abbiamo detto in diverse puntate che alcune specie sono autoincompatibili, cioè non possono impollinarsi da sole e hanno bisogno di un'altra varietà per fare frutti. Non scherzate su questo. Le specie che non hanno problemi sono l'uva, la fragola, il pesco, il susino europeo, l'albicocco, il fico, il melograno, il noce, tanto per ricordarne qualcuna. Mentre richiedono l'impollinatore il melo, il pero, il ciliegio dolce, l'olivo, il nocciolo, l'actinidia e qualche altra specie meno importante. Per quanto riguarda il tipo di pianta, le piante da frutto vengono vendute a radice nuda o in vaso. Se acquistate a radice nuda, dovete mettere le piante in un secchio d'acqua per 24 ore e poi piantate immediatamente. Se la pianta è in vaso, prima di piantare rompete con le mani la terra attorno alle radici senza paura. Messa a dimora la nuova pianta, innaffiate abbondantemente e se potete stendete in superficie un po' di paglia o foglie secche che rimuoverete a tarda primavera. Circa l'età delle piante, non lasciatevi irretire dalle piante grandi di 2 anni e più. Le piante migliori sono quelle di 1 anno, 2 anni per l'olivo. Più vecchie sono le piante, più affascinano, ma quando le piantate hanno crescita stentata e vengono facilmente superate in sviluppo dalle piante di 1 anno che sopportano meglio la crisi da trapianto. Fate una buca grande, mettete dentro la pianta e mano a mano che riempite di terra tirate su la pianta in modo che il colletto, cioè la zona tra il fusto e le radici, sfiori alla fine il terreno. Non piantate troppo profondo. I vecchi dicevano che le radici devono sentire il suono delle campane. Può sembrare un fatto strano, ma invece funzionale al mantenimento della specie. Moreno Greatti, per La vita delle api, oggi ci parla della sciamatura. Per sciamatura si intende la partenza definitiva da una colonia di una regina seguita da una parte di api operaie, e per le api questo fenomeno rappresenta l'unica opportunità di diffondere la specie. Infatti, se in un organismo vivente la riproduzione consente di perpetuare la propria specie, nelle api ciò non avviene, in quanto la nascita, seppur di migliaia di nuovi individui che rimangono confinati in un unico alveare, non riveste nessuna importanza al fine della sopravvivenza e della propagazione della specie stessa. Pertanto, la sciamatura, dividendo in due o più parti una colonia, rappresenta la modalità di riproduzione del superorganismo alveare. La sciamatura in un'apicoltura razionale è considerata una caratteristica negativa, in quanto viene indebolito l'alveare sciamante e di conseguenza si riduce la produttività dello stesso. Per questo l'apicoltore, per quanto possibile, cerca di limitarla con opportune tecniche. Le cause che inducono le api a sciamare sono numerose e spesso legate tra di loro. Possiamo ricordare la predisposizione genetica, l'andamento climatico, l'abbondanza di raccolto, l'età della regina, la mancanza di spazio nell'alveare. Nei nostri ambienti la sciamatura va da aprile a giugno. Nella colonia che si appresta a sciamare, le operaie allevano scalarmente nelle cellereali nuove regine, e poco prima della nascita di una nuova regina, la regina vecchia, con molte migliaia di api, abbandona il nido. Questa viene chiamata sciamatura primaria. Prima di abbandonare l'alveare, le api sciamanti riempiono la borsa melare di miele per portarsi appresso dell'alimento che le consentirà di sopravvivere per qualche giorno. Per tale motivo le api sciamanti sono particolarmente pesanti, lente nei movimenti e per nulla aggressive. Nell'alveare che ha sciamato, la prima regina che nasce ucciderà le sorelle direttamente nelle celle, ancor prima che queste nascano. E se nascono da due regine contemporaneamente, si affronteranno sui favi fino a che ne sopravvive una. Talvolta, in particolari condizioni, le api non permettono alla regina di uccidere le altre. E in questo caso, a distanza di pochi giorni, dall'uscita dallo sciame primario, uscirà un altro sciame, che viene chiamato secondario. Questi sciami, ovviamente, sono costituiti da un numero minore di api e la regina è vergine. È da dire che in tutta questa serie di operazioni complesse la regina funge da semplice comparsa e non interviene mai direttamente. Sono le operaie che decidono se sciamare o meno e sono le esploratrici a scegliere la nuova dimora. Oggi il dottor Aldo Cavanni, che è uno dei tre autori del libro Amici Alberi, che ci cura questa rubrica dedicata appunto agli alberi, ci parlerà di Thalée e Margot. Un albero, noi sappiamo che può nascere da un seme oppure, per capacità riproduttiva, dalla cepaia. Abbiamo quindi una produzione gamica col seme o agamica, cioè senza il seme. Seminare un albero, voi immaginate che richiede però tempi molto lunghi, no? Quindi questo viene fatto nei vivai, le piante vengono seminate, crescono e poi si riproducono con dei trapianti. Ma ci sono anche altri modi per riprodurre un albero. Se noi abbiamo un albero a cui siamo particolarmente affezionati, potremmo anche pensare di riprodurlo facendo delle talee, cioè tagliando dei rami nella stagione giusta, tagliando questo ramo, in genere dell'ultimo biennio, mettendolo con determinati trattamenti prima in acqua, poi in terra, e creando delle condizioni perché possa buttare radichette da questa parte interrata, e una volta che queste radichette si saranno sviluppate metterlo a dimora. Questa è la talea. Poi esiste la margotta. La margotta è un procedimento analogo, solo che io il ramo non lo taglio prima di aver prodotto le radichette, ma scorteccio una certa lunghezza di ramo lasciandolo sulla pianta intatta. Prima lo impiastriccio con un po' di terra, metto del muschio umido, lo avvolgo con un domo opaco o un sacchetto nero, l'importante è che resti l'umidità, lo leggo alle due estremità, attendo e ogni tanto verifico se sono spuntate le radichette. Esistono anche delle sostanze che favoriscono la radicazione, che possono essere messe. Una volta che questo tratto di ramo ha prodotto le radichette, lo taglio, ovviamente verso il fusto, no? E lo metto a dimora. Questa è la margotta. Però esiste anche la propagine. La propagine è un sistema che in genere viene riservato a zone ad alta quota dove, per dire, la stagione vegetativa è così breve che le piante non producono seme. Quindi in questo caso si flette il ramo, lo si porta a contatto del terreno, lo si blocca con dei picchetti, lo si ricopre di terra e si attende che radichi. Una volta che radica la si taglia posteriormente verso l'albero e quella è una pianta nuova e così il bosco può andare avanti anche ad esempio a 1800 e passamenti di altitudine. Con Amos D'Antoni vediamo ora l'andamento dei mercati agricoli in un raffronto con lo scorso anno. Per quanto riguarda i mercati di alcuni prodotti agricoli, si sono avute buone soddisfazioni tra i prezzi del 2020 e quelli del 2021, anche se i fertilizzanti hanno ridotto di molto l'utile dei produttori. Nel settore degli ortofrutticoli, in particolare nel comparto delle verdure, nel 2021, per condizioni meteo poco favorevoli, i prezzi sono lievitati. I cavoli, l'insalata gentile, i pomodori, le melanzane, i finocchi, le zucchine hanno subito leggeri aumenti. Solo le patate sono rimaste al palo. Nel comparto della frutta, il paniere delle mele, pere, delle pesche, nettarine e arance hanno segnato continuità dei prezzi con quelli precedenti. Solo i kiwi hanno avuto quotazioni medio elevate. Nel settore ittico l'annata è stata carente di alcuni prodotti come seppie, mazzancolle, branzine e altri. Il recupero dei consumi domestici non sembra essere stato sufficiente a compensare i pescatori dell'annata poco redditizia. Valutando le statistiche del settore avicunicolo, il quadro è positivo ed è l'unico comparto zootecnico la cui domanda resta vivace e trova interesse. Proficuo il mercato dei polli, tacchini, faraone, oche e anatre. Hanno ripreso quota pure i conigli con quotazioni lievemente in salita, mentre le operazioni commerciali delle uova rilevano un aumento della domanda. Per quanto riguarda la sezione dei foraggi, le tariffe non hanno registrato variazioni sostanziali per la paglia di cereali pressata, mentre si è avuta una leggera discesa delle quotazioni per erba medica pura e il fieno mazzengo di pianura. Analizzando l'andamento dei prezzi agricoli del 2021, questi hanno dimostrato un andamento crescente, anche se gran parte dei guadagni va a coprire le maggiori spese di materiale prime come concimi, mangimi, lubrificanti e servizi intermedi. E con il previsore dell'ARPA Sergio Nordio diamo uno sguardo al tempo che farà nella settimana entrante. L'anno nuovo è iniziato con una forte inversione termica. La presenza dell'anticiclone africano con aria calda ha provocato dei record, con valori massimi che proprio il 1° gennaio hanno superato i 19 gradi sul Carso e anche in quota sono stati misurati dei valori massimi assolutamente fuori posto, come a Collina di Forniavoltri dove si sono toccati i 16 gradi. In seguito l'anticiclone ha lasciato spazio a una depressione con un marcato fronte freddo che nella giornata del 5 gennaio ha provocato, come un compendio di meteorologia, quasi tutta la tipologia di fenomeni meteo, piogge molto intense sulle prealpi con il massimo di 235 mm a Ucea in comune di Resia, secondo valore dal 1961 a oggi per gennaio. Nevicate intense su gran parte della zona montana, fino a 70 cm di nuova neve sulle Alpi Giulie. Vento forte prima da sud e poi da nord-est, con raffiche fino a 126 km/h a Monte Prato di Forgaria. Bora forte a Trieste, tanti fulmini e in serata anche un po' di neve in pianura sul Carso. Il moderato fronte che ci sta invece interessando oggi ci lascerà domani mattina e affluiranno nei prossimi giorni correnti da nord-est progressivamente più secche. Per tutta la settimana avremo probabilmente tempo stabile, con cielo variabile domani, poi in prevalenza sereno, a parte possibili nubi basse sul Tarvisiano. Lunedì soffierà vento da nord-est anche sostenuto sui monti in quota, bora moderata sulle zone orientali, più sostenuta a Trieste, dove le raffiche fra martedì e mercoledì probabilmente saranno intorno ai 100 km/h, in calo poi nei giorni successivi. Le temperature rimarranno basse, con le minime sotto zero quasi ovunque, ma perfettamente in linea con i valori medi della climatologia del periodo. Poi, nella seconda parte della settimana, probabilmente i valori massimi saranno in rialzo, con l'arrivo nuovamente di masse d'aria più miti dall'Africa, previsione che comunque dovrà essere confermata nei prossimi giorni. Termina qui la puntata. Oggi nello spazio del proverbio vogliamo fare una verifica sull'allungarsi dei giorni secondo il proverbio Anadal un pi di gial, Prindalan un pi di cian, l'Epifanie un pi di strie. Facendo data al 21 dicembre, convenzionalmente il giorno più corto dell'anno, il pi di gial al 25 dicembre vale 33 secondi, al primo dell'anno il pi di cian 4 minuti e 55 secondi, mentre il pi di strie del 6 gennaio è lungo 10 minuti e 24 secondi. Coordinamento tecnico di Ugo Nicoletti, il nostro indirizzo mail è vitaneicampi@rai.it. Potete trovarci su Facebook e sul sito della TGR del Friuli Venezia Giulia. Armando Mucchino, Rita Miccoli e tutta la redazione vi ringraziano e danno appuntamento a domenica prossima. Avete ascoltato? Vita nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia.